Vado in carcere per questo motivo, mi ci dovete portare un'altra volta, andiamo. Questo non ho nulla da dire su questo mondo, anzi, per me torna un punto d'onore. Ha finito? Ci sono altre domande? No, io volevo fare alcune domande, professore. Intanto vorrei sapere se lei è stato sottoposto a processo penale in relazione all'organizzazione Azione Rivoluzionaria. Sì, sono stato sottoposto nel 1980 e sono stato scarcerato in istruttoria per assoluta mancanza di indizi. Tra l'altro è anche indicato qua nell'annotazione. Volevo poi sapere, volevamo inoltre sapere, se per caso lei è stato incriminato per propaganda ed apologia sovversiva. Sì, tantissime volte. Ecco, ci vuole ricordare le sentenze della... Sì, si comincia nell'ottobre del 72, quando sono stato arrestato per due articoli scritti su un giornale anarchico, si chiamava Sinistra Libertaria, da me come redattore responsabile, di cui è uscito soltanto un numero, e sono stato condannato a 2 anni e 2 mesi. Dal tribunale di? Di Catania. No, dalla Corte d'Assise di Catania. Ah, la Corte d'Assise. Quindi non solo l'accusa era qualcosa di più di apologia di reato, perché eravamo in Corte d'Assise, non vorrei adesso ricordare male. Altri processi analoghi? Diciamo che complessivamente i più grossi sono quello per il libretto contro l'amnistia, che sta sempre in Corte d'Assise, quello per la gioia armata, viceversa al tribunale. Questo per la gioia armata sono stato condannato a Catania, sempre un anno e mezzo. 77 la gioia armata, sono stato assolto in primo grado, condannato in appello un anno e mezzo, poi definitivo. Poi questo per il libretto dal titolo "E noi saremo ancora pronti a impadronirci un'altra volta del cielo", e sono stato assolto in Corte d'Assisi. Non mi chieda perché stiamo parlando tribunale e Corte d'Assisi, perché variano queste imputazioni, non saprei. E poi per articoli di giornale in tantissimi altri processi. Per provocazione, per anarchismo? Sì. In relazione a queste riviste è anche stato processato? Per articoli pubblicati. Per articoli, certamente. Sono per stato processato ad esempio per la pubblicazione di cui abbiamo parlato l'altra volta, di un volantino che descriveva in dettaglio come fare a tagliare un traliccio dall'alta tensione, ed era un volantino che avevamo tradotto dal tedesco e che portava come titolo "Che cosa sarebbe successo se si fossero messi d'accordo Gorbaciov e Reagan", all'epoca i padroni. Siamo nell'anno del Signore? 85, 86. Non... Se vuole posso pigliarlo qua. Sì, certo. Per quanto riguarda lo scritto che lei ha citato nell'altra udienza, per quello scritto non è stato processato? Nuove svolte del capitalismo? No, sono stato incarcerato. Ah. Adesso? No, in relazione a questo processo? Sì. No, io mi riferisco a un processo separato, diverso. E chi mai poteva venire in mente di processare qualcuno per quello scritto? Non lo so, faccio la domanda. Faccio. Mentre volevo completare la questione del volantino, se mi consente, signor Presidente. Per quel volantino sono stato assolto in primo grado, condannato a 8 mesi in secondo grado, assolto in Cassazione, perché l'accusa, secondo il giudice della Cassazione, si basava su una connessione di causa-effetto non fondata, in quanto i carabinieri avevano detto che si poteva presupporre che in quel di Torino, essendo stato tagliato un traliccio con determinate modalità, di cui peraltro non c'era nessuna documentazione agli atti, c'era una connessione con quando pubblicato sull'articolo. La Cassazione ha ritenuto che non era sufficiente il suo fatto ed ha rinviato il giudizio in appello. Alla Corte d'Appello di Catania sono stato assolto. Era l'epoca in cui furono commessi molti attentati contro i tralicci? Sì, a lei non risulta che fossero organizzati questi attentati da gruppi stabili? No, a me non risulta. Poi, le risulta qualcosa a proposito di sequestri di persona? No. O eseguiti da militanti del movimento anarchico? No. Mi sembra che lei abbia fornito già una spiegazione circa la sua partecipazione a processi contro gli anarchici. Perché seguiva questi processi? Per quale spirito? Con quale spirito? Processi di... contro anarchici accusati... Aspetta un attimo, processi di Trento, di... perché avevo un motivo di... Io non sono mai stato a un processo dalla parte del non imputato, sono stato sempre come imputato. Esclusi quei processi là perché avevo un motivo di natura sentimentale. Quindi per solidarietà umana, politica? In particolare no, per natura, solidarietà politica non è una faccenda sentimentale. Ah no? No, è una faccenda, significa identificazione di progetto, concordanza di idee e così via. C'era qualcosa di più evidentemente, perché in quel processo c'era mia moglie. Per quanto riguarda il movimento anarchico, cosa ci può dire circa l'assistenza degli imputati, detenuti? Circa le? L'assistenza, gli aiuti economici. Avete nel movimento anarchico qualche apparato che provvede o qualche struttura che provvede ad aiutare i detenuti? Sì, ci sono delle strutture. Ci racconti tutto quello che sa a proposito degli aiuti finanziari forniti agli imputati in carcere o ai latitanti, se per caso le risulta qualcosa? A me non risulta per la detante, però per gli imputati in carcere ci sono un'organizzazione storica che esiste da circa 30 anni, che si chiama Comitato Pro Vittime Politiche, che è l'organizzazione della, la struttura dell'organizzazione di sintesi, che manda dei soldi in carcere. Sì, ma siccome però lei non, ha detto che non fa parte di questa struttura di sintesi, il movimento, il suo movimento, possiamo usare questa espressione, che in fondo lei... è il punto di riferimento di un certo numero di anarchici, almeno come movimento. Nessun movimento, c'era qualcosa di simile per aiutare. Non posso essere d'accordo con questa definizione, perché se esiste un punto di riferimento di questo tipo, occorre che sia chiaro di che genere di punto di riferimento. Sì, è logico che se io... Il significato che lei ha usato, non di autorità, ma di autorevolezza. Su quel che riguarda la questione di determinate ipotesi teoriche, di determinati fatti, i quali che poi io personalmente me ne vada da solo a tagliare un giallicio o a fare una rapita, queste sono faccende mie, personali, quindi l'autorevolezza... per quel che riguarda gli altri compagni, non mi può venire dalla questione che io me la sono andato a fare una rapina, ma dalla questione che io ho sviluppato determinate analisi, determinate teorie. Sì, il compagno no, ma io le ho chiesto, non ci interessa nulla della... Io le ho quindi, come punto di riferimento per probabilmente una mia capacità o incapacità, secondo i punti di vista, di sviluppare determinate teorie. Mi risulta se in questa area si aiutavano i detenuti? In quest'area sì, nel 1987 credo è stato costituito un comitato di difesa anarchico che si incaricava di raccogliere dei soldi da parte fra i compagni, che prendendo non sono grandi cifre, per cercare di mandare in carcere i compagni e eventualmente anche cercare di dare qualcosa agli avvocati che di regola non è che siano. E questo le risulta personalmente? Questo sì, sottoscrizione. La Namsetki Mojdek parla di un'organizzazione o di un'associazione o di un sodalizio a due livelli, uno legale destinato alle manifestazioni, ai convegni, alle riunioni, alla propaganda, e l'altro occulto. Ha qualche osservazione da fare? Sì, signor Presidente, ho molto da dire su questo discorso, perché questa è la tesi classica, non di questa ragazzina alla quale... Non credo che possa essere personalmente in grado di pervenire da sola a questa idea così simpatica. È la tesi classica che normalmente viene fatta circolare come c'è tentativo di dimostrare che esiste un'organizzazione e che c'è due livelli. Però quando noi pensiamo all'esistenza di due livelli, che cosa abbiamo in mente di regola? Abbiamo in mente, poniamo un palazzo con due piani, no? Primo piano, sono detto... Il primo piano è il piano terreno. Ma se, signor Presidente... Un piano col sotterraneo. Il piano nobile e il piano terreno. Io direi il sotterraneo e il primo piano, sì. Piano terreno. Ma quest'idea, per poter esistere e poterne discutere, occorre che il palazzo esista. Perché se il palazzo non esiste, i piani del palazzo non esistono nemmeno. Qua invece succede che mi si chiede, anche lei signor Presidente mi consenta, mi chiede dell'esistenza dei piani di un palazzo di cui nessuno ha dimostrato l'esistenza. No, io le ho fatto presente un elemento d'accusa. Perché bene che si difenda, in quanto è stata mossa questa contestazione dal pubblico ministero. Quindi io non è che ho commesso un errore, io la metto in grado di difendersi, evidenziando l'accusa che viene portata contro di lei. Ma questa accusa, per essere esaminata concretamente e dire che non esiste, e i motivi per dimostrare che non esiste sono quelli che abbiamo affrontato fino a questo momento, cioè dire che gli anarchici si rifiuterebbero di accettare una duplice esistenza di questo tipo. E qualora dovesse esistere che qualcuno si vuole dedicare a determinate attività che lei vuole definire underground, chiamiamolo così, sotterranee, non lo verrebbe certamente a dire a me, sono decisioni sue. Ora io non posso dire esiste o non esiste, non mi riguarda, perché non è una cosa che posso dimostrare, se non teoricamente, ognuno fa le cose che crede opportuno. Però c'è una cosa che bisognerebbe, secondo me, riflettere e cercare di approfondire, che chi fa la domanda sui due livelli dovrebbe prima dire, essendo che si è dimostrata l'esistenza di questa organizzazione, adesso ci spieghi se questa organizzazione di cui si è certi dell'esistenza era costituita da due livelli. Non le sembra più corretto, signor Presidente? Io ritengo che il Presidente, quando fa la domanda, deve contestare quello che è stato contestato dal pubblico ministero, non dando per vero nessuna circostanza riferita. Siccome il pubblico ministero le ha contestato che lei deve rispondere di associazione a delinquere, no, di associazione sovversiva e di banda armata, io le devo fare questa domanda e lei ha dato una risposta. Perché lei ha commesso la rapina a Bergamo? Per mancanza di soldi. E cosa, per mancanza di soldi a che fine? A cosa le servivano questi soldi? Ho fatto una dichiarazione al giudice di Bergamo per vivere. E cioè? Per vivere? E da Bergamo in poi come ha fatto a vivere? Evidentemente da Bergamo in poi ho ripreso a fare i lavori che facevo prima. Ah, sì. E sarebbe opportuno vedere quanto guadagnava con questo lavoro. Ma sarebbe opportuno, ma chi sospetta a lei, non a me? No, e se che lei ce lo indicasse, visto che ha detto che ha fatto una rapina per vivere, io le sto facendo la domanda che cosa ha fatto dal 1991 ad oggi per vivere. Tesi di laurea. Tesi? Tesi di laurea. Attività clandestina, illegale. Se vuole gli faccio un elenco di tutti i tesi di laurea che ho fatto. No, mi interessava se ha fatto altre rapine. No, perché nomi degli studenti. No, i titoli delle tesi, non gli studenti. Sì, ultima domanda e poi finiamo. Il gruppo di affinità di cui lei parla presenta una struttura organizzata, stabile? No. Sì o no? No. Scusi, signor Presidente, però il no è troppo riduttivo, perché i due termini indicati da lei non si eliminano a vicenda. L'organizzazione e la stabilità sono due cose che possono convivere e anche possono esistere separatamente. Una cosa non stabile può avere un'organizzazione. Noi abbiamo un concetto radicato nella nostra mente, che l'organizzazione sia una cosa che duri nel tempo, che abbia un precedente storico. L'organizzazione può essere l'intesa di più persone che armonicamente si muovono insieme per raggiungere un obiettivo. Può nascere ora e morire domani, ma si chiama sempre stessa organizzazione. Un obiettivo o un programma di obiettivi? No, non un programma, un obiettivo. Perché se non contraddirebbe alla questione della conflittualità permanente di cui abbiamo parlato, dell'indipendenza, il programma. Quindi è una... quando lei parla di gruppo di affinità non si riferisce ad una struttura stabile e duratura? No. Però intendendo che potrebbe essere duratura, come ad esempio è stato a Comiso, in cui i gruppi di affinità sono durati 2 anni, cioè di un tempo considerevole. Ma però nella finalizzazione dell'obiettivo di distruggere la base. Finita. Che non siamo riusciti a fare quello che ci prevedevamo di fare. Finito questo, sono finiti i gruppi d'affinità, sono finiti i nuclei di base, è finito il coordinamento e così via. Quindi in sostanza viene prima l'obiettivo. Scusi. In sostanza prima si individua un obiettivo, poi le persone che hanno affinità si aggregano intorno a questo obiettivo, poi cercano di coinvolgere altre persone anche non necessariamente vicine a, diciamo, non anarchici, gente che lotta in una situazione concreta, Poi da questo si può passare a ipotesi di contatto con altre esperienze analoghe, sempre su quell'obiettivo o su obiettivi vari? No, sempre su quell'obiettivo, sempre su quell'obiettivo, perché l'unicità dell'obiettivo è indispensabile, perché sennò cadrebbe, l'ipotesi sua, se facesse il passo successivo, cadrebbe nel parasindacalismo. Un'organizzazione che risolve i problemi della povera gente. No, invece è proprio finalizzata all'obiettivo specifico. L'articolo sulle nuove svolte individua un obiettivo? Non mi sembra. Una serie di obiettivi? Non mi sembra, adesso non vorrei... No, parla, perché mi sembra, parla in generale, diciamo, sì, perché era un attivo metodologico. Certo. Tenga presente che una scaletta di conferenze, dove magari in quel contesto si approfondirono argomenti più specifici di natura... C'è in questo momento un... Ecco, allora no, io devo tornare per forza a una domanda che ha fatto il pubblico ministero. Quando si parla di tutto quel discorso che si faceva sull'attacco alla cosa Stato, è un discorso di obiettivo concreto da individuare? Cioè, allora no, mettiamolo in un altro modo. Che rapporto c'è tra la teorizzazione o il discorso sull'attacco alla cosa Stato, per esempio, e l'esperienza di Comiso? Il rapporto diretto, l'esperienza di Comiso era una delle realizzazioni più pregnanti dello Stato italiano, del suo asservimento alle mire, come si chiama, USA, della presenza di bombe atomiche in Sicilia, nel contesto siciliano. Noi abbiamo sviluppato in quella sede un elenco di conseguenze che poteva determinare la presenza degli americani in Sicilia, ad esempio aumento del livello dei prezzi, difficoltà di trovare una casa, diffusione della droga, diffusione della prostituzione. Questo elenco è stato, come dire, talmente pubblicizzato in 2 anni che a un certo punto è stato pure fatto proprio dal vescovo di Ragusa, cioè è una cosa che tutti quanti ne parlavano in quel contesto. Noi abbiamo fatto un lavoro massiccio che è durato 2 anni, discutibilissimo se si vuole da un punto di vista rivoluzionario, però da un punto di vista insurrezionale era il nostro scopo, era quello di determinare la possibilità che la gente scendesse in piazza, facesse, voi altri conoscete i paesi siciliani, Conto facesse... quel passo decisivo che dal fermarsi a sentire i comizi, perché nei paesi nostri i comizi in piazza sono sempre affollati, però il passo decisivo di andare dalla piazza alla strada per muovere contro la base, la gente non l'ha fatto. Noi speravamo che lo facesse, perché sta base si potesse distruggere, ma tutti insieme evidentemente. Posso fare una domanda ancora, signor Presidente, ma collegata alle risposte che sono state date adesso? Possiamo considerare che lei, quando parla di sua moglie, parla della Veir? Sì. Possiamo considerarlo. Quindi, perché, sempre ritornando a questo problema dell'organizzazione, fra i documenti che lei sa che sono stati sequestrati, c'è anche questo documento che è stato inviato a lei dalla Veir, e si dice rinvenuta nell'abitazione di Bagno a Ripoli nel corso della perquisizione locale effettuata lo scorso, se lei lo può trovare, a pagina 26, 11.995. E qui la Veir parla anche lei di organizzazione, di progetti e così via che manda a lei. A un certo momento, se lei va a pagina 28 per cortesia, perché soltanto questo voglio sapere, anche la Veir parla di organizzazione informale, però a un certo punto dice che un momento esteso di azione che parte da un gruppo promotore, lo mette fra virgolette, coinvolgendo un numero consistente di compagni individuali. Lei faceva parte di questo gruppo promotore insieme alla Veir? Non le dico tutto, ma in quale contesto? Che lei conoscerà. Ma in quale contesto? Nel contesto di questa organizzazione informale che si stava costituendo o che avrebbe dovuto costituirsi. Ma guardi che non sta parlando di questo. Veda, lei, avendo colto soltanto quel rigo e non avendo letto quello che c'è prima, rende conto al Presidente che praticamente questa lettera di cui stiamo discutendo riguarda l'organizzazione in senso astratto. Tant'è vero che la lettera comincia: l'organizzazione non è una cosa, ma è un processo in movimento. Stiamo parlando di un'organizzazione ipotetica di natura informale che è ben dettagliata nella lettera in esame, e poi lei mi chiede se io faccio parte di quell'organizzazione. Ma di quale organizzazione stiamo parlando? Ci riferiamo anche al 1995, buon anno. Vogliamo capire, no? Può anche darsi, noi vogliamo capire. Ebbene, credo che sia chiaro adesso. L'organizzazione, come ha detto il Presidente, poi si è concretizzata in qualche modo. se c'è stato un gruppo promotore e se lei insieme a sua moglie, la Veir, faceva parte di questo gruppo promotore. Tutto qui. No, lei non mi ha posto questa domanda, signor Pubblico Ministero. Lei mi ha detto se questa frase espulsa dal contesto significava la mia partecipazione. No, lei cerca di trarmi, di mettermi al muro. Ma, scusi, no, guardi, sì, perché... ma quale muro? Ma sono 2 anni, 4 anni che stiamo facendo questo processo. Per fortuna in pare che io aspetto questo muro. Momento per mettere al muro lei. Ma no, dai, lei sono 4 anni che ha la conoscenza di questa inchiesta, di queste carte, no? Ma le è stata data la possibilità. Oggi ho lanciato anche un'altra, ho dato anche un'altra lancia a suo favore per il confronto, però, perché voglio il confronto, voglio che lei eserciti al massimo il diritto di difesa. Ma no, io che posso fare di più? Io il diritto di il diritto e di... poi per sintetizzare mi posso anche sbagliare a enucleare una frase da un contesto per non leggere tutti questi. Buonanotte. Io mi sono letto queste cose dall'una, dalla prima all'ultima pagina. Io le dico che è stata una fatica immane, perché sono documenti. Allora io cerco di enucleare. Io mi condolgo per lei, dottor Marini, però quella frase come l'ha posta lei era equivoca, perché lei parlava di questa organizzazione, mentre allora, stiamo parlando di un'organizzazione in astratto, quindi io non posso far parte di un'organizzazione allora, in astratto. Facciamo una domanda molto semplice. Visto sostanzialmente che fra lei e sua moglie vi era affinità di intenti o affinità di, almeno in quel momento, al momento in cui stavate insieme, quando lei parla di che l'organizzazione formale ha bisogno di questo gruppo promotore, voi vi siete costituiti in gruppo promotore? Avete in mente di costituirvi? Oppure no? No, no, perché qua è un'idea teorica. Ma se lei legge tutta la lettera, mi spiace, vabbè, tutto. Comunque è evidente. Ha dato già una risposta, è un'idea. Ma è chiaro. Lei ha detto teoria. Ma sì, ma il mio sì è pleonastico, perché è evidente che è qua. Signor Presidente, quindi il rapporto con la UAI era un rapporto societario familiare? Non rispondo. No, questa volta lo dico io. Se è sua moglie. Risponda a questo allora, Bonanno, per cortesia. In una successiva lettera datata 19/9/95 e classificata come lettera numero 51, questo per farle arrivare il numero delle lettere. A pagina sempre 28, il numero delle lettere che io mi sono letto. Esprime fra l'altro le proprie conclusioni sul contenuto delle riflessioni esposte dalla Veir nella precedente corrispondenza. E lei dice, fra virgolette, questa volta riportata fra virgolette, la tua lettera del 12, puntini puntini, mi alleghi gli appunti sulla organizzazione, si parla sempre di organizzazione, si tratta di riflessioni interessanti che delineano bene un passaggio dal gruppo di affinità ai nuclei. Legga la parentesi, dottore, legga la parentesi, allora, che è importante, scusi. In questo senso è giusto includere anche il singolo può fare parte. Vabbè, cerco di sintetizzare. Ma quello che mi interessa è questo, ai nuclei di base non anarchici. Siccome noi in questo processo abbiamo un'esperienza in cui un gruppo anarchico ha ruotato per anni intorno ad una casa qui a Roma, che è via Ostiense, dove abitavano delinquenti comuni come gli Sforza, padre e figlio, e hanno commesso una serie di reati, tra cui una rapina in cui c'è stato anche un morto, voglio sapere se la sua teoria era quella di avere questi nuclei di base non anarchici insieme per formare questa organizzazione informale. Dottore, che significa nuclei di base non anarchici? Ma abbiamo impiegato ore a parlare di questo argomento. Si riferisce anche a delinquenti comuni? Signor, io mi rifiuto di rispondere a questa domanda. Ma abbia pazienza. Abbiamo discusso di lotte specifiche in cui le persone generiche, non anarchiche, subiscono una particolare intensità di sfruttamento, come ad esempio è stato a Comiso. Lei pensi che noi abbiamo impiegato 2 anni a Comiso per reclutare nei nuclei di base tutta la malavita del comisano? Ma veramente sta dicendo una cosa del genere, dottore? E me la fa teorizzare per giunta. Io ho trovato tante lettere lei. Io adesso chiedo una nuova udienza in cui porto tutte le lettere in cui voi su Cosimo avete teorizzato l'intervento della malavita organizzata, della mafia. Sono testi... Li porti, della mafia. Sì. E li porti. Lo porterò. Ma se la mafia è venuta dentro a sparare addosso a noi altri, che sta dicendo? Noi qui abbiamo un processo in cui c'è stato un sequestro di persona. Ma io non ci posso fare nulla, non posso farci nulla con il suo sequestro di persona. Lei non può permettersi di dire che io ho teorizzato che la mafia era un elemento positivo. Lei non può permettersi di dire. Un processo. Non mi interessa niente di sta storia. Con una sentenza passata in giudicato. Lei non può permettersi di dire che la mafia era stata. Potete stare un po' calmi, per favore? Anche perché le urla danno fastidio e non servono a niente. Quindi io non sto parlando di fantasie o di teorie. Calma. No, lei ha detto una cosa gravissima. Senza passare in giudicato, che dice che un gruppo anarchico romano si è messo d'accordo con delinquenti comuni della Malavita, organizzata anonima sarda, per sequestrare Mirella Siocchi. E allora perché strilla tanto? Se è un dato accertato, un dato di fatto, la sentenza esiste agli atti, qual è la domanda che fa all'imputato? I presenti, che sia il presidente sia i giudici che compongono questa corte d'assise, hanno un ottimo udito, non c'è bisogno di alzare la voce. Per cortesia, signor Presidente, chiedo scusa. Chiedo scusa anche a Bonanno perché purtroppo a volte siamo presi Guardi, io allora recepisco la domanda del pubblico ministero. Però, aspetti, mi faccia parlare. Dalla passione. E le faccio questa domanda. Rispetto agli Sforza, qual è la sua posizione? Ma io non conosco, non intendo rispondere a... La domanda è più complessa. La domanda non intendo è più complessa. Rispondere. È una posizione che trascende i singoli individui. Che lei non conosce, cioè è, se non ho capito male, rispetto alle ipotesi, all'eventualità di coinvolgimento, è di livello, come dire, cioè se e in che misura nel livello degli attacchi teorizzati rientrano quelli che, allora diciamola con un linguaggio che forse lei può accettare, noi che stiamo da questa parte considereremmo dei crimini. Questa è una domanda ragionevole, cioè a cui è possibile rispondere. È la sua posizione. Mi scusi. Se ad esempio, consentitemi se facciamo l'esempio di Comiso perché ci aiuta forse meglio, se nella situazione di Comiso, quando si sono formati i nuclei di base che si chiamavano leghe, non è che abbiamo chiesto alle singole persone partecipanti il certificato penale, mi pare una cosa ovvia. Però qua è stato detto una cosa che a me suona particolarmente offensiva, forse il pubblico ministero nelle sue scuse intendeva comprendere anche questo, che io non lo so, che noi o che esiste agli atti una documentazione in cui ci sono delle lettere che io intendevo, chi per me o qualcuno degli anarchici intendeva prendere degli accordi con la mafia, no, questo mi sembra un'enormità. No. Io tengo a precisare che elementi mafiosi sono venuti nella nostra sede a Comiso, hanno sparato addosso a noi altri. No, tanto per la cronaca non è che voglio fare la vittima. Per favore, lei dovrebbe rispondere alla domanda del collega. Non ha risposto ancora. Sì, ho risposto, nel senso che non è che nel creare insieme dei nuclei di base si cerca come elemento privilegiato il criminale, tra virgolette o senza virgolette, non è importante. Si cercano le persone che avvertono un determinato problema. La gente che si trovava a Comiso avvertiva il problema che non gradiva la presenza della base. Questo problema poteva essere avvertito anche da uno che aveva dei precedenti penali, ma non saremmo certo noi a chiedere il certificato penale. La gente di Comiso ha importanza, ma ha importanza anche la gente di Roma. Non so cosa dire. La famiglia Sforza. Ma io non so di chi state parlando, signor Presidente. No, la domanda era in altri termini. Se lei è andato fare una rapina per vivere, per le giustificazioni che ha dato, ma ce ne ha parlato anche l'altra volta, c'è una lunga tradizione alle spalle, dire, no? Non la stiamo scoprendo o inventando oggi, e può essere considerata dal suo punto di vista una forma di attacco a un'istituzione in cui non crede, che contesta, ma lasciamo perdere anche autofinanziamento personale, quello che personale, le parlo, non ha un giudizio morale di disvalore nei confronti della rapina in sé, come appropriazione di denaro, diciamo. Che giudizio ha lei sul sequestro di persone? Sulla privazione della libertà di un altro essere, magari sulla soppressione di quest'altra persona? Io non sono d'accordo con il sequestro di persone, io personalmente. Non è d'accordo? Cioè, che significa? Cioè è il contrario? È il contrario? È favorevole, mi sembra. È contrario? Non sono d'accordo. Ha detto non sono d'accordo. Non sono d'accordo rispetto a che cosa? Ai sequestri di persona? Ah, Non mi sembrava che stesse dicendo. No, no, non è d'accordo in ordine. Bonanno, stava dicendo quello, vogliamo essere sinceri? Che stava dicendo? Questo che ha detto, non sono d'accordo. Che non sono d'accordo. Dica con sincerità una volta. Dica che cosa stava che dicendo. Che significa una volta tanto? Che vuole dire lei? No, non voglio dire una volta tanto. No, pubblico, dica con sincerità che cosa stava dicendo. Lei non era d'accordo con quello che stava dicendo il giudice? No, io non sono d'accordo con i sequestri di persona, ma questa è una questione mia personale. Sì, mi si chiedono opinioni. Io a lei l'ho chiesto. Lei ha tante carte mie, trovi qualcosa che smentisca chi tu. Ce l'ho le carte. Qualcosa che smentisce quello che sto dicendo? Certo. Come certo? No, no, non è che qualcosa che smentisce. Voglio sapere lei qualcosa stava dicendo adesso, perché lei sta mettendo giustamente i puntini sulle i. Ha chiarito il suo pensiero. Un altro chiarimento, allora lasciamo perdere questo perché ognuno poi trarrà le sue conclusioni. Lei, fra le altre cose, ha frequentato spesso i cosiddetti centri sociali autogestiti, è vero? Oddio, spesso veramente anche no. No, perché io devo riscontrare spesso, le dichiarazioni della Modè, perché non mi interessa mica che lei vada nei centri autogestiti. Ma siccome la Modè ha detto quello che ha detto, noi lo dobbiamo riscontrare. E lei, c'è questo documento, fra le altre cose, a parte le testimonianze di cui lei non vuol parlare, però ci sono i documenti, quelli non possono essere stracciati, perché c'è un convegno tenuto il 24 e il 26 dicembre del 94 presso il centro sociale autogestito Clean Amen di Rovereto sul tema Induido, gruppo di affinità e insurrezione, in cui lei ha partecipato come relatore unico, si dice qua. In questo, perché andava in questi centri sociali a predicare l'insurrezione di massa? No, io non faccio prediche perché non sono un sacerdote. Vabbè, non è un sacerdote. Allora perché andava a fare relazioni del tipo di cui ci ha adesso detto, come quelle del nuovo capitalismo? Perché? Ma lo dico subito. Centri sociali. Perché il centro sociale di cui lei discute è un centro sociale, era un centro sociale anarchico, adesso non voleva c'è più. Voleva fare attività di proselitismo? Ma penso di sì, sì. Io non condivido la parola, però il proselitismo è una questione di chiarire e approfondire determinati elementi, mentre il proselitismo come parola ha suoni un pochettino troppo parziali, secondo me. Va bene, basta che voleva fare attività di proselitismo. Grazie. Fissiamo la data prossima. Puoi darmi una mano? Basta, io no. Signor, la prossima data no. Può andare. Avevamo individuato una data pubblico ministero, ma non va bene alla giuria popolare, quindi quel giorno non si può fare. E dobbiamo dichiarare, 13? Dobbiamo dichiarare chiusa l'istruttoria. E sì. No, io devo presentare. Sì, la prossima udienza, eventualmente, se ci sono delle richieste, dei documenti da produrre. Quando, il 12 avete stabilito? Sì, ma non si può il 12, perché non mancherebbe 13? La giuria popolare. E mi pare per tutta la settimana, vero? Abbiamo 3-4 giorni. 19, va bene. 19 che giorno? Oh no, mercoledì. 19 va bene, gennaio. Che giorno è? 19? Mercoledì. Mercoledì. 19. Va bene. Tutti d'accordo? 19 gennaio? 19 gennaio, certo. 2000, ore 9. Auguri alla cura. Ricambiamo. Ci sarà la discussione del PM? No, soltanto per... Potrebbe iniziare la requisitoria. Potrebbe iniziare.